Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.24 e tramonterà alle 21. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. L'utilizzo dei terricci è sempre più strategico non solo in orticoltura ma anche in floricoltura e vivaismo, che chiedono sempre nuove soluzioni di qualità. A Milano si sono riuniti gli esperti di tutto il mondo, tra questi anche l'ERSA, l'ente regionale che da anni ha un laboratorio che si occupa appunto di terricci. A seguire una mini rivoluzione nella geografia delle semine, che si convertiranno alle strisce in campo per ottimizzare i benefici della biodiversità. Per la rubrica dell'orto oggi scena le melanzane, che tanta fatica hanno fatto per imporsi sulle tavole europee, e a seguire una scheda sull'aconito, la pianta più velenosa d'Europa, comune anche sui nostri monti. Per la sicurezza alimentare, i consigli per districarsi nella mole di normative che regolano il settore, e poi una ricetta insolita per un piatto estivo di anguilla agli emoli. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. I terricci non solo in orticoltura ma sempre di più anche in vivaismo e floricoltura stanno assumendo dei ruoli importantissimi, tant'è vero che la scorsa settimana a Milano è stato organizzato un simposio internazionale dedicato ai terricci e alle nuove tecniche di coltivazione delle piante in contenitore. Uno dei tre organizzatori era Costantino Cattivello, vecchia conoscenza di Vita nei campi, oggi in studio. Qui chiediamo innanzitutto il ruolo del terriccio. Il ruolo del terriccio sembra secondario perché fondamentalmente non incide per più del 2-5% sul costo di produzione di una pianta, però un terriccio sbagliato causa la perdita di diverse centinaia di migliaia di euro anche in coltivazioni specializzate. Ci dica qualcosa di più su questo simposio milanese. Ma è un simposio che l'Italia ospita dopo 27 anni e che ha visto riuniti nella sede storica dell'Università Statale di Milano 190 ricercatori provenienti da 34 paesi che hanno presentato i risultati delle ultime ricerche sui terricci con cui si allevano le piante in vaso e le nuove tecniche di coltivazione, come ad esempio il vertical farming. L'ERSA, il nostro ente regionale di sviluppo dell'agricoltura, ha avuto un ruolo primario. Sì, certo, possiamo dire che è stato uno dei promotori di questo convegno. E va anche detto che in ERSA già dal 1985 è attivo uno dei pochissimi laboratori italiani che si occupa di analisi su terricci. E in ERSA c'è un gruppo di ricerca che porta avanti in collaborazione con le aziende del territorio e anche con le maggiori realtà nazionali e internazionali delle sperimentazioni per la messa a punto di nuovi terricci o per la valutazione di quelli in commercio. L'esperienza ininterrotta accumulata in questi anni ne ha fatto una realtà ben conosciuta nel resto d'Italia e anche all'estero. Lei prima ci parlava di nuove tecniche produttive. Nelle coltivazioni cosiddette in fuorisuolo le piante vengono allevate, come sapete, in contenitori di varia forma, non a contatto con il terreno e dove le necessità nutrizionali sono soddisfatte, somministrando a ciascuna pianta delle soluzioni nutritive. In questo convegno si è parlato in particolare di vertical farming. Il vertical farming è una tecnica di coltivazione fuori suolo relativamente recente e già sviluppata sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Prevede la coltivazione di giovani piante in ambienti chiusi, in fuori suolo e con illuminazione a LED. È famoso il caso di un'azienda di Londra che produce questi ortaggi da foglia in un ex rifugio antiaereo. Va comunque detto che alcune realtà stanno muovendo i primi passi anche nel nostro paese. Vantaggi e vantaggi di queste tecniche? Tra i vantaggi direi la possibilità di produrre direttamente in città, là dove si consuma. Un altro vantaggio è l'elevata produttività e, ultimo ma non meno importante, la possibilità di produrre senza uso di fitofarmaci e poi, modulando lo spettro luminoso, arricchire queste piante di composti utili alla salute. Tra gli svantaggi direi il fatto che al momento è applicabile solo su poche specie, specie da foglie fondamentalmente, e il costo di produzione è abbastanza elevato. A quanto pare cambierà, soprattutto nelle grandi aziende, la maniera di seminare, ovvero la geografia delle colture. Ci dice tutto Cristina Micheloni per la rubrica del Bio. Diversità è la parola chiave. Clima imprevedibile, attività biologica e fertilità del suolo in declino, patogeni e parassiti che non si riescono più a contenere, malerbe che vivono di vita propria e diventano resistenti anche agli erbicidi. Insomma, la natura evolve in maniera molto rapida. O ci inventiamo qualcosa per diversificare i nostri sistemi culturali, oppure non ce la caviamo nemmeno economicamente. Se continuiamo a pensare a commodity su larga scala, non ce la facciamo. Una pratica già in campo, in tutti i sensi, e soprattutto su aziende di grandi dimensioni, è quella della coltivazione a strisce. L'idea è quella di alternare su terreni abbastanza grandi delle strisce che vanno dai 4 fino ai 12 metri l'una dall'altra, di almeno due colture diverse. È chiaro che la dimensione delle strisce e la coppia di colture da coltivare va scelta con un po' di discernimento. La distanza, per esempio, gli effetti positivi che sono soprattutto sugli insetti, sul contenimento per esempio di effetti meteorologici molto pesanti, quando piove molto c'è vento, quindi l'effetto fisico proprio di contenimento, e anche sui patogeni, nonché sulla fertilità del suolo, si ha con le file più strette possibile, sui 4-6 metri, però chiaramente questo implica anche una meccanizzazione di un certo tipo, un po' di difficoltà in più. Allargando però si è visto che fino ai 12 metri questi vantaggi, queste sono pubblicazioni scientifiche disponibili, fino a 12 metri sono ancora utili questi effetti positivi, e quindi nella pratica, io l'ho visto in Germania, in Olanda, ma spero pian piano di vederlo anche da noi, queste fasce di 12 metri che rimangono sempre quelle, ormai ogni trattore ha un GPS, un computerino, per cui tenere memoria negli anni di dove si è seminata una cosa e dove si è passati con gli attrezzi non è difficile, in cui si alternano per esempio la barbabietola da zucchero e l'orzo, per esempio il pisello proteico e il frumento, oppure se pensiamo alle orticole e agli insetti, aglio e cipolla che si alternano con la carota piuttosto che con altre colture che sono sensibili agli afidi, e quindi questo ha un effetto di prevenzione repellente sugli insetti che colpirebbero l'altra coltura. I famosi abbinamenti. Sì, è un po' tornare alle consociazioni, però fatte in maniera tale che anche la meccanizzazione, anche la distanza fra le file va fatta a seconda delle macchine che uno ha. Però hanno fatto anche i conti dei tempi, avendo per esempio 5-6 ettari con due colture a strisce, consente di andare striscia per striscia, ottimizzare i tempi come se avessimo, anziché 5 ettari più 5 di due colture, la stessa cosa, ovvero la stessa quantità di tempo necessaria per singola coltura, però su strisce alterne. Questo lo si fa già sui piccoli appezzamenti, non è una novità, però sulle grandi aziende sta diventando una cosa più che interessante. La lunga e travagliata storia delle melanzane, che tanto hanno faticato ad imporsi nella nostra dieta, come ci racconta Stefano Montello. La melanzana è una pianta che viene dall'India, portata in Europa dai mercanti arabi verso la fine del Medioevo, e ha sofferto per secoli tutte le diffidenze e le insolenze che normale routine patiscano le novità, soprattutto quelle che non creano un immediato entusiasmo quando arrivano in qualche nuovo paese, tipo il chewing gum o il McDonald's o la guerra preventiva, tutte cose trapiantate con successo da un paese all'altro. Arrivata in Europa, la melanzana, Xenos straniera per definizione, ha incrociato qualcuno che l'ha boicottata, che l'ha tenuta prigioniera, che l'ha diffamata, e per secoli, fino all'Ottocento, è stata indicata con disprezzo come ortaggio pericoloso e per questo più volte inserita nella lista nera degli ortaggi canaglia. Infatti, il nome melanzana deriva da mela insana, perché questo frutto era alquanto misterioso e non erano chiari né il modo di mangiarla né di coltivarla, e si presumeva potesse essere nociva per la salute. Un erbario del 1500 infatti ci avverte come la melanzana possa portare alla pazzia se mangiata in quantità esagerate, più di 9 pezzi si dice, e quindi veniva consigliata un'assunzione in modica quantità, che poteva essere invece un portentoso stimolante sessuale e trasformare un normale padre di famiglia in uno scatenato vir erectus per tutta la notte, e anche, melanzana più, melanzana meno, per il mattino dopo. È molto facile pensare che quei provi uomini del 1500 non avessero semplicemente idea di come si potesse e dovesse cucinare quel misterioso ortaggio. e che a un assaggio, seppur curioso, del frutto crudo si fossero ritratti con disgusto, con l'esofago intasato e la lingua di peluche. Ed è stata proprio questa colossale ignoranza che ha alimentato una sorta di ostracismo nei confronti di questa pianta, che è durato per secoli. Dunque, la melanzana è stata xenos, lo straniero, il foresto, l'immigrato, l'invasore. E come tutti questi è stata giudicata non tanto dai fatti quanto dalle suggestioni, non da un'analisi razionale degli avvenimenti pro o contro, ma solo da un sentimento di timore e diffidenza e paura. Vedremo come andrà a finire. La storia ha tempo e non brama risposte. La politica sì, e spesso non ne ha. Antonino Daneluto oggi ci parla dell'aconito, la pianta più velenosa e pericolosa che si possa trovare in Europa, pianta comune anche sulle nostre montagne. Se in una giornata d'estate decidiamo di liberarci dall'opprimente calura cercando un po' di refrigerio sui monti della Carnia, allora nei pascoli alpini, nei prati pingui attorno alle malghe e alle concimaie, al margine dei boschi e nelle forre, molto probabilmente avremo la possibilità di imbatterci in alcune specie di aconito dei fiori blu, violetti o gialli. Sono robuste piante perenni, alte anche un metro, con fusto eretto e dall'inconfondibile fiore con il petalo superiore a forma di elmo. La specie, con le foglie divise in segmenti stretti un paio di millimetri e con l'infiorescenza terminale generalmente non ramificata e densa di numerosi fiori violetto scuri, è l'aconito napello, nome scientifico Aconitum napellus. È la pianta più velenosa non solo della flora italiana, ma addirittura della flora europea. Tutte le parti, specialmente se fresche, sono alquanto tossiche a causa di diversi alcaloidi, fra i quali il principale più abbondante è l'aconitina, che si trova in maggior quantità nella radice. È accertato che la dose letale per un uomo si aggira su 1-2 mg di aconitina, contenuti in 1-2 g di radice fresca. I sintomi dell'intossicazione si manifestano dopo qualche decina di minuti, poiché gli alcaloidi dell'aconito vengono assorbiti già a livello gastrico. L'evoluzione è molto rapida e la morte sopravviene per arresto cardiorespiratorio in poche ore. Addirittura dosi eccessive possono dare esito letale in pochi minuti. L'impiego terapeutico, consistente in applicazioni esterne di estratti di radice contro le nevralgie facciali del trigemino e la sciatica, è praticamente abbandonato, in quanto l'assorbimento dei principi tossici avviene anche attraverso la pelle, mentre la tintura, in bassissima percentuale, entra nella composizione di diverse preparazioni per uso esterno contro nevralgie, dolori muscolari e reumatici. Assai raro è l'avvelenamento del bestiame, che evita accuratamente tutte le specie di aconito. Sembra che le api che ne visitano i fiori producano miele tossico. Questa pianta era conosciuta fin dai tempi remoti. I Galli ed i Germani avvelenavano con il succo delle sue radici le frecce e le esche di carne fresca destinata a volpi e lupi. Nell'isola greca di Ceo, anticamente, i vecchi malati venivano eliminati con un decotto di aconito. In India, invece, lo si impiegava per eseguire condanne capitali. In passato c'era chi credeva che i maghi diventassero invisibili appena si mettevano al collo una pelle di serpente imbottita di radici di aconito sminuzzate. Quali gli obblighi, quali le norme principali in fatto di sicurezza alimentare? Ne parliamo con Claudio Fontanini per la rubrica della sicurezza alimentare, che oggi ci spiega più che altro come rapportarsi a una mole sterminata di adempimenti e soprattutto di direttive. La sicurezza alimentare nell'Unione Europea è tutelata da un imponente edificio regolatorio, con l'obiettivo di proteggere la salute e gli interessi dei consumatori e, nel contempo, di favorire il corretto funzionamento del mercato unico. La normativa europea ha subito negli ultimi 20 anni un'importante evoluzione e una profonda revisione, principalmente sotto due spinte. Grandi crisi e scandali riguardanti prodotti alimentari o mangimi, come ad esempio la mucca pazza e il pollo alla diossina, che hanno dimostrato che l'approccio fino ad allora utilizzato non era pienamente efficace. La globalizzazione, che, portando a una grande dispersione territoriale di produzione e commercio, complica l'individuazione dell'origine di eventuali malattie alimentari e il tempestivo ritiro dal mercato del prodotto contaminato. In questo contesto è nato un nuovo quadro legislativo, noto come pacchetto igiene, che ha alla base un approccio cosiddetto dal campo alla tavola. Ogni operatore della filiera ha pertanto la responsabilità di garantire che la sicurezza alimentare non sia compromessa nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione che ricadono sotto il suo controllo e che sia assicurata la rintracciabilità dei prodotti. Gli operatori sono tenuti a elaborare e applicare procedure basate sui principi del famoso HACCP, il sistema imperniato sull'analisi dei rischi e dei punti di controllo critico. L'HACCP, ideato negli anni 60 dalla NASA al fine di assicurare la sicurezza degli alimenti per gli astronauti, è stato poi adottato volontariamente dalla grande industria alimentare, fino a diventare un requisito di legge per tutto il settore. C'è inoltre l'obbligo di informare i clienti su eventuali prodotti a rischio e di ritirarli dal mercato. Se fossero già arrivati al consumatore, il richiamo va pubblicato nella specifica area del portale del Ministero della Salute, liberamente consultabile, e che in questi giorni, per esempio, riporta ritiri relativi a integratori a base di curcuma. Alla normativa europea, comune a tutti gli Stati membri, si aggiungono la legislazione nazionale e la regolamentazione regionale, come ad esempio le linee guida del Friuli Venezia Giulia relative alla formazione obbligatoria per gli addetti del settore alimentare. Di solito l'anguilla è piatto autunnale, ma nella sua ricetta con gli emoli, giocoforza si ritaglia tempi estivi, come ci dice Roberto Zottar. Nella nostra regione la frutta entra anche in numerose preparazioni salate di cucina e questo gusto agrodolce rappresenta probabilmente un riverbero degli influssi di gastronomie più nordiche. Un esempio ne è la bisata coiemui, cioè l'anguilla cotta con le prugne, singolare ricetta tradizionale della pianura pordenonese, pietanza estiva condizionata dal tempo di maturazione dei frutti e controcorrente rispetto al fatto che la miglior stagione per le anguille sia tra ottobre e primavera. L'anguilla, pesce solitario, ama acque tranquille con fondo melmoso e ricco di vegetazione, quanto più riparato dalla luce solare, e questa sua inclinazione la porta a trovare accoglienti anche cisterne e pozzi. Leggenda vuole che, durante questi spostamenti, sia attirata dai piselli e talvolta questi vengono appunto coltivate sulle rive dei fiumi nella speranza di adescarla. L'anguilla da sempre è stata considerata una prelibatezza per le mense, cotta in modi più svariati, uno per tutti il bisato in speo, tipico della zona di Marano Lagunare. Amoli, amui, emui sono differenti dizioni per i frutti di piccole dimensioni del Prunus cerasifera usati per questo piatto. Comunemente in italiano sono chiamati mirabolani o ciliegie susino o mirabelle. Sono frutti di sapore dolce, leggermente acidulo intorno al nocciolo, che si consumano freschi o in composte. Per realizzare la bisata coi emui, in mancanza di amoli, si possono anche usare le susine acidule. Eviscerate e pulite l'anguilla e per eliminare il viscidume della pelle tenetela per qualche ora in congelatore e poi lavatela con acqua e aceto. In una pentola con poco olio fate cuocere per un quarto d'ora dei pomodori a pezzi con qualche cucchiaio di concentrato di pomodoro, uno spicchio d'aglio, alloro, qualche bacca di ginepra e gli emui. Aggiungete l'anguilla, tagliata a pezzi di 5-6 cm, spruzzate d'aceto e pepate. Fate insaporire per qualche minuto, coprite con acqua e cuocete a fuoco medio-alto per un'ora. Quando il sugo si sarà addensato, l'anguilla sarà cotta. Aggiungete del vino e prezzemolo tritato, mescolate e fate sfumare ancora per un paio di minuti. Spegnete il fuoco e lasciate riposare per almeno mezz'ora. Riscaldate nuovamente prima di servirla con la polenta. Buon appetito! Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,70 e 16,90 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 32,50 e 33 euro, l'orzo peso specifico 60-63 si quota tra 15,30 e 15,80 e il frumento tra 16,50 e 16,80. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 50 centesimi e il frumento di 10 centesimi il quintale. Segni di stabilità nel mercato dei bovini a macello, con le vacche fine carriera di prima qualità a peso morto tra 2,45 e 2,95 euro al chilo, quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Mercato fermo anche nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 6,70 e 7,10 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,80 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,10, i bruni tra 1,70 e 1,90. Toni incerti pure nel settore suinicolo, con il valore degli attonzoli di 30 kg franco partenza fissato a 3,07 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,19. In lieve movimento il settore dei foraggi, dove il fieno mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro al quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,50 e 13 euro. Domanda sempre sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,45 e 5,95 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 6,70 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10, infine scambi stabili nel comparto degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,10 e 1,12 euro al chilo, tacchini maschi tra 1,47 e 1,49, le faraone tra 2,20 e 2,24, le anatre tra 2,30 e 2,34, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 1,50 e 1,56, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 12,60 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante e più un breve contributo di climatologia locale. Negli ultimi 20 giorni abbiamo registrato sulla regione temperature molto elevate, con una media dei valori massimi che hanno superato addirittura di oltre 5 gradi il valore medio, prendendo come riferimento la stazione in quota sulle Alpi Carniche di Monte Zoncolan a 1750 metri, da quando sono iniziate le osservazioni della rete meteorologica regionale nei primi anni 90. Il 27 giugno è stata misurata, sempre sul Monte Zoncolan, anche la temperatura massima più alta in assoluto per questa località, con ben 27,4 gradi. Anche sulla pianura, la media delle temperature massime hanno sfiorato i 5 gradi in più, mentre sulla costa l'effetto mitigante del mare ha calmierato l'aumento con 4 gradi in più sul settore occidentale fra Lignano e Grado e circa 3 gradi in più a Trieste, dove il mare, un po' più profondo e un po' più fresco, frena le ondate di calore. Dopo il caldo stanno arrivando i temporali, che con la forte umidità negli strati medio-bassi di questi giorni possono diventare localmente anche forti. L'atmosfera nei prossimi giorni rimarrà instabile per l'ingresso di correnti un po' più fresche dall'Atlantico. Avremo occasione ancora, almeno fino a giovedì, per frequenti rovesci e temporali un po' su tutte le zone, specialmente nei pomeriggi, più probabili domani e mercoledì, mentre martedì appare una giornata più stabile. Farà la ricomparsa la bora, con intensità moderata, specie sulla costa, fra domani e martedì, portando un po' di refrigerio e aria più secca. E le temperature massime nei prossimi giorni non dovrebbero superare i 30 gradi, posizionandosi leggermente sotto la media del periodo. Verso la fine della settimana l'evoluzione generale è ancora piuttosto incerta. Sembra permanere un moderato afflusso in quota di correnti settentrionali fresche, che potrebbero continuare a favorire l'instabilità pomeridiana con i temporali, ma sabato potrebbe anche sopraggiungere un nuovo fronte atlantico. La partita è ancora tutta aperta, sottolineiamo quindi l'importanza di seguire giorno per giorno l'aggiornamento delle previsioni e auguriamo una buona settimana a tutti gli ascoltatori. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano, a San Pieri e il fornasir allevieri, ovvero che per San Pietro lo scorso 29 giugno il fornacciaio ha già da molto tempo iniziato il suo lavoro stagionale. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino vi ringrazia e dà appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.